molte migliaia di presenze. Io posso, diciamo che da qui non si vede né la coda né la testa, comunque il pezzo di testa davanti a me ci saranno 3-4 mila persone, più davanti a me sicuramente ci saranno 3-4 mila persone, che è il pezzo che ho fatto a ritroso, dietro non lo so, quindi comunque saremo sicuramente di sopra delle 6-7 mila, in totale però non ve lo posso dire perché dovrei tornare indietro. E dunque, per cominciare a fare magari qualche valutazione più generale, anche se la manifestazione non è affatto conclusa, abbiamo qui un compagno di Cobas al quale volevo chiedere, nell'ambito del comparto mobilità, a cominciare dalle ferrovie, questa lotta no TAV entra soltanto come una partecipazione delle avanguardie o si sta cominciando a discutere sulle connessioni e quindi anche sulle risorse, no, che vengono destinate a quest'opera inutile e devastante rispetto a quello che invece vengono tolte al sistema dei trasporti, in particolare su ferro, e quindi insomma la valutazione dal punto di vista dall'osservatorio del sindacalismo di base, come si colloca in questo frangente? Ciao! Beh, io credo che le mobilitazioni di questa settimana hanno posto l'accento su tanti aspetti, non solo quello della determinazione del popolo della valle, della solidarietà e anche della repressione, ma anche proprio su questi aspetti, insomma. Cioè, l'Italia è uno dei paesi dove vengono in teoria destinate risorse alla realizzazione di megaprogetti che tagliano servizi, nella fattispecie anche il trasporto su ferro, insomma. Ce l'hanno raccontato in verità i lavoratori e le lavoratrici che si sono arrampicati sui tetti, che hanno occupato le fabbriche della Vagolista e dell'RSI, insomma. E quindi credo che anche la risposta che il governo Monti ieri dà alla mobilitazione che dura ormai una settimana è una risposta al pericolo che comunque la lotta no TAV esporti su tanti aspetti, diciamo, di carattere economico e sociale del nostro paese questo tipo di problematiche, insomma. Ce l'ha raccontato appunto i lavoratori della Vagolista, cioè di come praticamente per destinare soldi e fondi all'alta velocità praticamente sono stati tagliati treni notte di fatto, e poi tutte le storie che raccontiamo spesso anche per radio sul pendolarismo e via discorrendo. Quindi questo, credo che la centralità di questa battaglia sta anche nel riuscire ad imporre come volontà popolare la destinazione di fondi a delle cose che sono utili veramente per il paese. Per quanto riguarda il livello politico, c'è stato giusto l'altro ieri un'azione del movimento che ha occupato la sede del PD, giustissima, perché chiaramente il coinvolgimento e lo schieramento di questo partito a totale sostegno del TAV è qualcosa di vergognoso, ancora di più in questa fase. Però volevo chiederti, non è che i sindacati confederali sono meno coinvolti o meno favorevoli con l'eccezione della FIOM, poi vediamo entro quali limiti, anche lì c'è una contraddizione da far esplodere. Ecco, voglio dire, un'azione come quella fatta nella sede della direzione del PD è proponibile, è pensabile, è utile anche rispetto alle responsabilità dei sindacati confederali, secondo te? Ma noi in questi anni abbiamo imparato a conoscere i sindacati confederali come dei soggetti comunque altamente corresponsabili nelle scelte scellerate sia di Confindustria che del governo, insomma, anche laddove si entrava nel merito di appunto progetti estremamente nocivi, dietro una presunta difesa alla tratta del lavoro e spesso del lavoro non sicuro, e poi chi sceglieva di stare con chi continuava a tenere aperto per esempio il petrolchimico a Gela o l'Ilva di Taranto o Marghera, insomma. Quindi crediamo che sia abbastanza debole, diciamo così, e anche consociativa la posizione del sindacato confederale, bisognerebbe cominciare anche a tirarli in mezzo, insomma. E di questo sicuramente sia i sindacati di base, ma anche la FIOM, che è più grosso, insomma, più sicuramente radicato, hanno una posizione diversa. Bisognerà capire se questo potrà essere sufficiente, almeno su questo tema, a trascinare un'intera classe lavoratrice che ancora comunque, diciamo così, nicchia rispetto a questo tipo di problematiche. Insomma. L'ultima domanda è la manifestazione della FIOM del 9. Secondo te, secondo i COBAS, il discorso NOTAV entrerà in qualche modo in questa manifestazione alla FIOM? Cercherà in qualche modo un basso profilo? Ma innanzitutto i comitati NOTAV della Valle hanno già, credo, definito la presenza di una delegazione, come hanno fatto in altre manifestazioni, anche se bisogna ricordare che già all'epoca dell'ultimo sciopero generale una loro presenza al corteo sindacale è stata un po' osteggiata, insomma. Quindi ci sono state tante dichiarazioni di principio. Per il momento sappiamo che nei giorni successivi agli sgomberi, praticamente alla caduta di Luca Caltravizio, anche loro hanno compartecipato il secondo giorno alla proclamazione dello sciopero provinciale per tutte le fabbriche di Torino. Chiaramente lo sciopero generale nella valle è sicuramente un argomento che dovrebbe essere all'ordine del giorno, insomma, e quindi capiremo se, al di là delle dichiarazioni di principio e l'ospitare o meno delegazioni, ci sarà un contributo più in termini fattivi di partecipazione alla lotta. Sicuramente c'è da dire una cosa importante: lunedì e martedì hanno scioperato tantissimi lavoratori e lavoratrici delle fabbriche intorno alla valle, delle fabbriche più importanti, e lo hanno fatto indipendentemente dall'appartenenza, insomma, ma a fronte della sensibilità e della militanza contro il progetto all'alta velocità, insomma. Quindi questo è sicuramente il dato importante che può spingere anche organizzazioni tra virgolette più moderate a schierarsi un pochino più apertamente. Grazie. Allora, pronto? Sì, risentiamo, insomma, era interessante il dibattito. Sì, volevo aggiungere una cosa, è una riflessione che mi veniva in mente ieri leggendo gli articoli sull'ultima tragedia o come chiamiamo noi, omicidio sul lavoro nel cantiere lì sulla metro C, no? Ecco, leggevo su Repubblica le dichiarazioni riportate dal delegato della CGIL che giustamente, insomma, denunciava la mancanza di norme di sicurezza, eccetera, eccetera. Però, ecco, in un incidente di quel genere, probabilmente un discorso, un accenno a quello che è la scelta del TAV, c'è già un precedente, insomma, la devastazione ambientale del Mugello con la desertificazione delle fonti, con gli omicidi sul lavoro, appunto, di tutti i lavoratori che sono morti, no? All'interno di quei cantieri, ecco, un accenno a questo non è stato minimamente fatto, mentre credo che la contemporaneità dei fatti avrebbe potuto legittimare questa cosa. Quindi probabilmente è un altro sintomo del timore o anche del rifiuto di schierarsi di questo sindacato confederale. Non parliamo di CISL e UIL perché stanno apertamente, insomma, dalla parte del governo, qualunque esso sia. È una questione su cui da quella parte è difficile immaginare una sponda, no? Quindi l'ultima domanda che facevo al compagno dei Cobas sulla manifestazione del 9 probabilmente sarà una cartina al tornasole di questo, perché si potrà anche capire fino a che punto la FIOM si può spingere sul dissenso, oppure se ci sarà un rientro nei ranghi, per cui, insomma, le posizioni CGL non saranno più contestate apertamente o forse neanche indirettamente. Ecco, io adesso magari forse possiamo pure chiudere questo intervento, perché stiamo continuando il corteo sta continuando sulla via Prenestina, la testa ha superato già il cancello della SNIA e quindi dopo vediamo magari più tardi di vedere come prosegue anche l'elicottero permettendo col rumore che fa, è difficile parlare. Comunque la situazione è molto tranquilla, il corteo, come vi ho detto, sono molte migliaia di persone e adesso si sta improvvisando da un camion un intervento. E quindi non so, ditemi voi, io posso anche farvelo ascoltare oppure ci sentiamo più tardi. Guarda, io direi che ci possiamo risentire fra qualche minuto. Noi nel frattempo continuiamo questo lavoro così di sentire altre situazioni in giro per l'Italia, perché comunque ce ne sono parecchie. Comunque è interessante, sì, magari Scusami, volevo dire che il corteo si era fermato e si è aggirato adesso col camion perché è arrivato davanti alla sede occupata dei lavoratori, degli 800 lavoratori licenziati di Treni Notte. Ah, giusto. Quindi adesso c'è una sosta, diciamo, con un ritorno indietro, sta tornando indietro il furgone con le bandiere Notav, quindi diciamo che il corteo non prosegue adesso verso Piazzale Prenestino, dove invece si trovano, vediamo, i lampeggianti dei blindati dei carabinieri e c'è stata adesso questa sosta davanti al presidio appunto degli 800 licenziati del Sino. Okay. Ci sentiamo allora più tardi quando volete. Infatti, va bene, ok, a dopo.